cercherà la mosca che continua a girare, che sembra impazzita intorno alla lampada accesa. Ma che mai vorrà la mosca che fa tanto rumore, così disperata intorno alla lampada accesa? Guardandola penso che anch'io mi agito così come lei, ma inutilmente, inutilmente, inutilmente, perché basta spegnere la luce e la mosca già tace. È triste pensare che qualcuno spegnerà anche la mia lampada accesa.